Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Mercoledì ore 10.30 all'incirca è l'orario in cui inizia Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo, registrata dal vivo per meglio dire, di ogni genere e di ogni epoca. Un paio di ore che iniziano sempre con una novità, e oggi una novità un po' particolare perché ci sono parole incomprensibili per me e assolutamente impronunciabili, assolutamente ostrogote, come si dice, no? Parte gli scherzi, oggi abbiamo il titolare della novità che vi presento, che vi propongo, che si chiama Diamonds on the Road Live 2023. È una cantante chitarrista finlandese e risponde al nome di Esa Litinen, più o meno naturalmente, e è uscito ormai da un paio di mesi il suo ultimo album live, che è un doppio molto molto accattivante, che è stato registrato in un posto incredibile che si chiama Ritmi Johamo, una cosa del genere. Questa è la vigno, diciamo, in una cittadina, città che si chiama Siinajoki in Finlandia. Se c'è qualche ascoltatore finlandese all'ascolto, chiedo subito scusa per la mia pessima pronuncia, non conosco assolutamente il finlandese. Comunque Esa Litinen viene da una città che si chiama Kuopio. Il suo primo album è stato nel 2002 e poi ha fatto 4 album dal vivo, di cui uno durante la pandemia, un album live senza pubblico che andò in streaming attraverso internet. È molto famosa soprattutto nel nord Europa naturalmente, e soprattutto in Germania. Lei iniziò la propria carriera con un blues abbastanza canonico, poi a poco è diventato un po' più duro, un po' più hard, e adesso forse lo è anche un po' troppo, ma comunque fa sempre delle cose molto interessanti. L'album che vi propongo oggi è stato registrato meno di un anno fa, l'11 marzo del 2023, in questa cittadina, appunto Siinajoki o qualcosa del genere, che rappresenta quello che è l'ultima incarnazione, diciamo così, di questa ottima cantante chitarrista. Ci sono un sacco di pezzi, fra cui uno anche in finlandese, che magari forse vi farò ascoltare più tardi, perché ho scelto come primo brano, come brano introduttivo di questo album, che lo ripeto si chiama Diamonds on the Road Live 2023, ho scelto un brano non suo, l'unico brano, l'unica cover di tutto l'album, è una cover del cosiddetto mancino di Seattle, vale a dire Jimi Hendrix, e il pezzo si chiama Crosstown Traffic. Lei è Esa Litinen. Speed I try. so quick and raw. I'll rock for cross your back, I can see you had your fall. Come dicevo, un suono molto aggressivo da parte di questa cantante chitarrista finlandese, della quale pronuncio il nome sempre in modo diverso, Erja Litinen, una cosa del genere, ed è questo album molto aggressivo, come abbiamo già avuto modo di sentire. Sono tutti brani suoi, a parte questo che ci siamo ascoltati, la sua personale versione di Crosstown Traffic di Jimi Hendrix. Ho scelto questo brano proprio perché mi è venuta voglia di proporvi quest'oggi un po' di covers di brani di Jimi Hendrix, che sono tantissime, e quindi la scelta è stata veramente molto molto dura, perché ce ne sono, come dicevo, tantissime, e molte sono veramente veramente belle. Andiamo subito ad iniziare con quella un po' più particolare, e anzi ad iniziare con due cose italiane, che è sempre un piacere far ascoltare cose italiane valide, perché diciamo che il panorama italiano di musica live è sempre abbastanza scarso. Comunque, alcuni anni fa, esattamente nel 2007, Repubblica pubblicò insieme settimanalmente, insieme al giornale o alla rivista L'Espresso, una serie di album di jazz italiano. Si chiamava appunto la serie Jazz Italiano Live 2007. È stato registrato principalmente a Roma, alla Casa del Jazz, come il caso particolare che ci andiamo ad ascoltare. Lei si chiama Maria Pia De Vito, è una cantante che proviene da Napoli, e

E dopo il jazz di Maria Pia De Vito con la sua Up From The Sky, la sua versione di Up From The Sky, siamo rientrati in canoni più hendrixiani insieme a una delle migliori band italiane degli ultimi tempi, degli ultimi anni, anche se più che una band in realtà è un duo. Adriano Viterbini alla chitarra e alla voce, Cesare Petulicchio alla batteria. Sono loro, Bud Spencer Blues Explosion, nome un po' che lascia il tempo che trova, ma sicuramente un'ottima band, grande musica, estrinsecata soprattutto in questo, unica cosa live a mia conoscenza, di Bud Spencer Blues Explosion. Si chiama Fuoco Lento Live EP, è stato registrato al Circolo degli Artisti di Roma il 14 marzo del 2011. Il pezzo, naturalmente, spero, credo non abbia bisogno di presentazioni, si chiama Voodoo Child, Jimi Hendrix at his best. Pochissimo tempo prima della pubblicità, quindi 2 minuti e mezzo per un'altra cover di un brano di Jimi Hendrix. Il brano si chiama Fire, ad eseguirlo in quel che fu Woodstock 99. Il 30° anniversario di Woodstock fu festeggiato, per modo di dire, perché fu veramente un brutto weekend in quel di Roma, stato di New York, il 22 e il 25 luglio del 1999 appunto. I Red Hot Chili Peppers parteciparono con questa cover di Fire, che fra l'altro fu suonata da Free, il bassista, completamente nudo. Il tutto registrato il 25 luglio del 1999. Loro sono Red Hot Chili Peppers, il pezzo si chiama Fire. You wanna do it? You wanna do it? Fuck you! Eric Clapton è sempre stato un grande ammiratore di Jimi Hendrix, sin dalla prima volta che lo vide al Marquis di Londra nella prima sortita londinese di Jimi Hendrix, stiamo parlando del 1967 giù di lì, e insieme ai suoi Dominos suonò e risuonò questa Little Wing che ci siamo ascoltati e che è pur sempre un gran bellissimo pezzo. Derek and the Dominos, l'album è naturalmente Live the Fillmore, un doppio veramente notevole che è stato registrato il 23 e il 24 ottobre 1970. Questo brano in particolare è stato registrato il 23 ottobre ed è notevolissimo, secondo me. Eric Clapton è sempre nel mio cuore e c'è sempre stata questa dicotomia fra Eric Clapton e Jimi Hendrix, ma in realtà loro erano molto amici per quel po' che hanno potuto stare insieme. Per la serie chi se lo sarebbe mai aspettato? Abbiamo un gruppo che si chiamava Soap Dragons, era un quartetto che proveniva dalla Scozia, è stato attivo dal 1985 al 95 e poi ci sono state alcune riunioni spot, fra cui l'ultima lo scorso anno. Hanno fatto 4 album e alcuni singoli, erano un gruppo abbastanza poppeggiante che però ebbe un buon successo in quel periodo, soprattutto in Gran Bretagna, anzi oserei dire solamente in Gran Bretagna. Qui abbiamo un 12 pollici in vinile, un EP, cioè sono 4 brani, l'EP si chiama Can't Take No More, è stato registrato a Lulu, anzi sarebbe meglio dire ULU, sarebbe l'Università di Londra, anzi University of London Union, che è il sindacato praticamente degli studenti dell'Università di Londra. Il tutto registrato il 27 febbraio 1987, il brano si chiama Purple Haze, loro si chiamano Soap Dragons. We done this supporting Love at the Roxy back in 67, you might remember it. Come on. there. Joseph Bowie è un trombonista cantante nell'ambiente jazz di New York City e tanti anni fa, nel 1978, fondò una band che si chiama tuttora Defunct, anche se a volte si fa chiamare, come in questo caso, Defunct Special Edition. E lui è uno che ha contaminato, lui e la sua band naturalmente hanno contaminato il jazz con altri ingredienti tipo rock, appunto, e anche il blues, visto che in questo album, che si chiama I Blues Tribute to Jimi Hendrix e Muddy Waters, omaggiano appunto questi due grandi personaggi, Muddy Waters nei primi pezzi e Jimi Hendrix nella chiusura. Il tutto è stato registrato nella Knitting Factory di New York City, un locale molto molto importante nella città, nella grande mela, come si suol dire, nel gennaio del 1994. Il pezzo, anche questo famosissimo, si chiama Foxy Lady. Ci avviamo verso la fine insieme ai miei Benjamin Fish. Anche loro hanno fatto tantissime cover di Jimi Hendrix. Ho scelto per voi questa del 5 aprile del 1998, siamo a Providence, Rhode Island. Loro hanno fatto un sacco di cose dal vivo, di registrazioni pubblicate, un sacco di registrazioni dal vivo. Questa è della serie Live Fish, una serie più o meno infinita. E siamo in chiusura, anzi siamo nel bis della serata, e loro non si fanno mancare niente con questo brano di Jimi Hendrix che si chiama Bold as Love. He smiles tenderly, shiny metallic purple armor. Queen jealousy, envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters taken for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite, ready for wonder why the fight is on. They are all

Fish, quindi, a concludere questa prima parte di Città Fujiko di oggi, Città Fujiko Live Club di oggi, 31 gennaio 2024, un sacco di covers Jimi Hendrix, capirete facilmente che ce ne sono ancora tantissime, per cui molto probabilmente nei prossimi tempi ci sarà una seconda parte dedicata ai brani di Jimi Hendrix interpretati da altre canzoni, da altri musicisti. In particolare questi erano i Fish, appunto Bold as Love, il pezzo che ci siamo ascoltati. Seconda parte di Città Fujiko Live Club del 31 gennaio 2024, quindi ultima trasmissione di questo primo mese dell'anno, e naturalmente il primo brano della seconda parte è sempre appartenente alla novità che vi propongo nel corso della trasmissione. E oggi abbiamo una novità finlandese, Erja Litinen è questa cantante chitarrista che ci propone questo suo quarto album live, Diamonds on the Road Live 2023. Infatti è stato registrato lo scorso anno, l'11 marzo del 2023, appunto. Mi rifiuto un'altra volta di dire ancora il nome del locale della città in cui è stato registrato, ma sono due città finlandesi, un locale e una città finlandese. E nel corso della oramai mia lunga vita avrò ascoltato miliardi, senza esagerare, miliardi di canzoni, ma a mia memoria, anche se abbastanza labile negli ultimi tempi, non ho mai sentito, non ho mai ascoltato una canzone in finlandese, e questa invece era appunto la canzone finlandese che vi avevo preannunciato nel corso della prima parte della trasmissione. Anche in questo caso mi rifiuterò di dire il titolo perché sono due parole lunghissime con pochissime vocali, però è l'unica canzone in finlandese che è contenuta in questo doppio dischetto, e che è la prima canzone in finlandese che Erja Litinen ha scritto e interpretato. E come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Ricordi Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna nel trascorrere degli anni. E ancora una volta tantissime cose, e ancora una volta il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade. E iniziamo con una band che oramai data tantissimi anni, infatti è stata fondata nel 1967. Eric Bloom, cantante, chitarrista e tastierista, e Buck Damoreser, chitarrista e cantante, sono gli unici due membri originali. Molti di voi avranno già capito che sto parlando dei Blue Oyster Cult, appunto da Long Island, New York City, e che hanno avuto tantissimo successo negli Stati Uniti soprattutto. Sono anche molto famosi per i loro testi che riguardano fantascienza, fantasy e amenità varie. Loro hanno fatto parecchi album live, scusate, questo è il secondo della loro discografia, uscì come long play singolo nel settembre del 1978, però è stato ripubblicato nel 2007 con allegato un DVD e nel CD 7 pezzi in più rispetto all'album originale. Questi 7 pezzi, come tutto il resto dell'album originale, sono registrati un po' qua, un po' là, che è una cosa abbastanza deleteria per quel che è il mio live album ufficiale, il mio live album perfetto, però questo non è assolutamente male. Nella ristampa abbiamo una registrazione che è stata effettuata il 31 gennaio del 2024 alla Music Hall di Boston, ed è un doppione perché questo brano era contenuto anche nella versione originale, però in un'altra registrazione. We Gotta Get Out of This Place è un super classico della musica di tutti i tempi, riconoscerete subito il riff del basso perché è famosissimo. Il tutto, come vi dicevo, registrato il 31 gennaio del 2024. We Gotta Get Out of This Place erano delle canzoni più cantate dai soldati americani in Vietnam, e si capisce facilmente il perché. Another song we're recording just for a live record. Something you never heard us play before, huh? I'd like to dedicate this song to Mr. Eric Burden. dedicato a Eric Burdon, anzi a Eric Burdon, scusate, che è stato l'interprete originale di questo We Gotta Get Out of This Place, brano scritto da Cynthia Will e l'altro, mi verrà in mente prima o poi ve lo dirò. Infatti questo era un brano degli Animals rifatto il 31 gennaio del 1978 dai Blue Oyster Cult in quel della Music Hall di Boston e inserito nella ristampa in CD di questo splendido album che si chiama Some Enchanted Evening, Blue Oyster Cult. Si chiama l'altro, il compagno di Cynthia Will si chiama Barry Mann. Dieci anni esatti dopo ci trasferiamo da Boston a Los Angeles insieme a una grandissima band che si chiama Dream Syndicate. È stata formata nel 1981, è andata avanti nella formazione quasi originale, quasi, fino al 1989. Poi nel 2012 Steve Wynn, che è il leader e chitarrista, l'ha riesumata e tutt'oggi è viva e vegeta. Steve Wynn poi aveva praticamente sciolto la band per avviare una propria carriera solista che gli ha dato diverse soddisfazioni. Questo album si chiama Live the Regis, era uscito in doppio long play in vinile nel 1989, ma è stato ripubblicato in doppio CD nel maggio del 2004 con 4 bonus tracks. Il Regis era uno dei locali più rock di Hollywood, durò pochissimo purtroppo, e però diede il tempo ai Dream Syndicate di registrare questo ottimo album che, lo ripeto, si chiama Live the Regis. Il tutto è stato registrato il 31 gennaio del 1988. Il pezzo parla della città dove eravamo prima, Boston. As soon as you can, the whole game's gone. honey. She's an angel of the first degree. She's as sweet as tupelo honey, just like the honey from the bee, from the bee, from the bee. I don't wanna be here. Bring it back, bring it back. I don't wanna be here anymore. Bring it back. I said I don't wanna be here anymore. Somewhere down the middle of the interstate, we can take it on down to some cold deserted lake and come back to Boston. Boy, make the same mistake. Il brano si chiama Boston, ma in realtà è stato registrato a Hollywood, Los Angeles, in un locale che si chiama Regis, che dà il titolo a questo doppio dischetto, si chiama The Complete Live at the Regis, registrato il 31 gennaio, scusate, del 1988. Loro erano naturalmente Dream Syndicate. Velocissimamente, Tom Petty and the Heartbreakers nel 1997 fecero 20 concerti quasi uno dietro l'altro al Fillmore di San Francisco. Uscì un cofanetto con il meglio di questi 20 concerti, cofanetto infarcito di covers e alcune abbastanza particolari, tipo quelle che ci andiamo ad ascoltare, perché è uno dei pochi pezzi che è stato registrato il 31 gennaio, sto parlando del 1997 appunto, non dico neanche di cosa si tratta, penso che voi lo riconoscerete all'istante, vi do solo un suggerimento: James Bond. Thank you. Ecco, una di quelle band che non ha avuto il successo che avrebbe meritato, almeno secondo me, o che almeno meriterebbe visto che sono ancora in attività. Si chiamano Smithereens, vengono da Carteret nel New Jersey, sono attivi dal 1980, ma nel 2017, nel dicembre del 2017, il loro leader si chiama Pat D'Inizio, che era il cantante chitarrista, è morto lasciando la band senza il loro principale scrittore e cantante naturalmente, però gli altri tre hanno deciso di continuare, hanno assoldato un altro cantante chitarrista, però sicuramente non è più la stessa cosa. Qui erano all'apice della loro carriera, siamo nel 2008 a New Brunswick, che è una località del New Jersey, al Card Tavern per la precisione. Il brano l'ha presentato lo stesso Pat D'Inizio, che si chiama Blood and Roses, il tutto registrato il 31 gennaio del 2008, scusate. Ultima cosa, arriva dal 2016 ed è il mio beniamino in assoluto. Avrete già capito, sto parlando di Bruce Springsteen, in questo caso insieme alla E Street Band. Ci spostiamo un po' da New Brunswick perché rimaniamo sempre nel New Jersey. Siamo al Prudential Center di Newark, praticamente nel giardino di casa di Bruce Springsteen. E uno dei suoi innumerevoli bootleg ufficiali è stato registrato il 31 gennaio appunto del 2016. Non vi starò a parlare di Bruce perché staremo qui fino a stanotte. Vi ricordo solamente i due concerti, il primo 3 giugno a San Siro. Fra l'altro ho visto l'altro giorno che ci sono ancora alcuni biglietti disponibili per una certa tipologia di posti nella giornata del 3 giugno. Comunque qui rimaniamo al 31 gennaio 2016 e ci andiamo ad ascoltare questa splendida ballata che forse non tutti ricordano, si chiama Point Blank. You don't need

one false move away. Gennaio 2016, Bruce Springsteen and the E Street Band al Prudential Center di Newark, New Jersey, come dicevo prima, praticamente in casa. Point Blank, il brano che ci siamo ascoltati e che conclude il Recorded Today di oggi. A concludere Città Fujiko Live Club invece ci penso alla novità che vi ho proposto quest'oggi, molto velocemente. Prima però vi ricordo che vi siete ascoltati un paio di ore di musica registrata dal vivo, denominata Città Fujiko Live Club, ogni mercoledì o quasi dalle 10.30 alle 12.25, naturalmente 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko, più l'apposita app con la quale ci potete ascoltare in tutto il mondo, che potete scaricare dal sito radiocittafujiko.it. Novità di oggi, questa cantante chitarrista finlandese Erja Litinen, Diamonds on the Road Live 2023, il titolo dell'album, doppio CD che comprende il brano con cui concludiamo Città Fujiko Live Club di oggi, Rocking Chair. Ci sentiamo mercoledì prossimo, ciao a tutti da Nevio. Life's a journey, now I understand. Takes time to learn to know where you stand. Working hours can feel so long. You can be right, but she can be wrong. Sensation. Keep on heading in the wrong direction. TV making everyone a freaking child. Steal your money and poison this planet.